24. La storia. Oggi vogliamo dirvi basta con il sangue. Basta con le lacrime. Basta. Rabin è un traditore. È con grande commozione e dolore che il governo di Israele deve annunciare la morte del primo ministro Yitzhak Rabin. Tre colpi di pistola sparati a bruciapelo, così il 4 novembre del 95 un giovane estremista ebreo uccide a Tel Aviv Yitzhak Rabin, il primo ministro israeliano, l'artefice del più straordinario successo militare della storia di Israele, la guerra dei sei giorni. Solo pochi minuti prima, davanti a una folla attenta e commossa, Rabin aveva detto, queste sono le sue parole, quello verso la pace è un cammino irto di difficoltà e di dolore. Ve lo dice uno che è stato un soldato. Un soldato che ha pagato con la vita l'impegno per la pace. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia, la sua storia, la storia di Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin nasce a Gerusalemme il 1 marzo 1922. È un Sabra, cioè un ebreo nato in Palestina, e la sua generazione è quella che potrà e dovrà realizzare il grande sogno sionista, cioè costruire una patria per gli ebrei. La madre Rosa, detta la Rossa, è stata una delle primissime attiviste della Haganah, la resistenza clandestina ebraica nata negli anni 20. Per seguire le orme della madre così attiva in politica, Rabin si iscrive al prestigioso istituto agrario Kaduri, dove studiano anche molti futuri leader israeliani. Ce ne parla la sorella di Rabin, Rachel Rabin. Mio fratello Yitzhak era un ragazzo molto tranquillo, direi introverso, e credo che questa sorta di timidezza lo abbia accompagnato per tutta la vita. Come molti suoi compagni, anche Rabin entra a far parte del Palmà, un altro movimento clandestino ebraico, che ha un compito preciso, combattere gli arabi. Zvi Zamir, che diventerà capo del Mossad, è amico di Rabin. Io e Rabin passammo la nostra gioventù nel Palmà. Viaggiamo moltissimo in tutto il paese. Entrammo a stretto contatto con molti villaggi arabi e capimmo subito quale minaccia avrebbero potuto rappresentare. La strategia del Palmà ruota attorno a un concetto basilare: penetrare a fondo il territorio nemico. Il 14 maggio del 48 nasce lo Stato di Israele, il primo ministro è David Ben-Gurion. Rabin a questo punto è già un soldato professionista, 25 anni e comandante di brigata. Il suo principale compito è aprire la strada che unisce Tel Aviv a Gerusalemme, obiettivo privilegiato della guerriglia araba. Sulla strada tra Tel Aviv e Gerusalemme si trovano le città arabe di Ramle e Lod. Le unità ebraiche, compresa la brigata di Rabin, hanno il compito di evacuare i 60.000 abitanti palestinesi. A raccontarlo è lo stesso Rabin. Non fu una cosa piacevole. Dovevamo attaccare i villaggi, avvertire i civili di andarsene e poi distruggere i villaggi stessi. La distruzione dei villaggi era l'unico mezzo per proteggere quella strada dagli attacchi. Rabin e gli altri comandanti hanno l'ordine di distruggere città e villaggi. Agli atti, tuttavia, non resterà alcun ordine ufficiale da parte di Ben-Gurion. Nessuna entità sionista, né di destra né di sinistra, ha mai ammesso la responsabilità per la tragedia del popolo palestinese, in arabo chiamata Nakb. Furono distrutti 400 villaggi su 600, molti dei quali deliberatamente. E tutti gli abitanti venivano evacuati non durante i combattimenti, ma soltanto dopo. Una guerra che forgia un'intera generazione, unendola per sempre. L'esercito è divenuto una componente importante della società. Lentamente però si è mangiato lo Stato. Moltissime persone che avrebbero voluto magari dedicarsi alla scienza, all'economia, all'arte, hanno preferito invece intraprendere la carriera militare. Avete sentito la voce del giornalista Uri Avneri. Rabin non fa eccezione. Anche lui abbandona il sogno di diventare ingegnere idraulico e resta nell'esercito. Ascoltiamo ancora l'ex capo del Mossad, Zvi Zamir. Non restavamo nell'esercito solo per avere uno stipendio fisso. Sapevamo che era un nostro dovere e che dovevamo compierlo. Subito dopo la guerra, in Israele arrivano più di 600.000 profughi ebrei. La popolazione raddoppia. Il servizio militare è il primo passaporto per ottenere immediatamente un'identità israeliana. Il paese comincia a cambiare volto. Ben Gurion assegna ai militari il compito di disegnare sotto il suo controllo il nuovo Stato. Ma l'autorevolezza del primo ministro è minacciata dalle vecchie formazioni clandestine. Ben Gurion allora decide di smantellare il Palmah. Ascoltiamo ancora la sorella di Rabin. Per l'addio al Palmah ci fu una grande cerimonia. Ben Gurion non voleva che Itzhak fosse presente, perciò lo invitò a casa sua per il weekend. Itzhak ci andò, ma per tutto il tempo era nervoso. Gli chiese di fermarsi a cena, ma Itzhak guardò l'orologio e disse: «Mi dispiace, non posso rimanere. Devo assolutamente andare alla cerimonia del Palmah». E se ne andò. Ma ne pagò il prezzo. Per molti anni non venne promosso. E infatti, per raggiungere la carica di capo di Stato Maggiore, Rabin dovrà attendere il 1 gennaio del 1964 e la fine del mandato del premierato di Ben Gurion. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando la storia di Itzhak Rabin, ex primo ministro israeliano. Il giovane soldato nato a Gerusalemme negli anni 60 è capo dell'esercito. Come comandante supremo delle forze armate israeliane, Rabin adotta uno stile molto diverso da quello dei suoi predecessori. Rabin vuole un esercito di professionisti, sa di aver bisogno di forze armate sempre pronte ed efficienti. E il 1967 il presidente egiziano Nasser minaccia di attaccare Israele. L'Egitto ammassa truppe tra il Sinai e Israele. Rabin mobilita immediatamente le riserve e comincia a prepararsi alla guerra e, nonostante non abbia più alcuna carica ufficiale, Rabin chiede consiglio al padre della patria, Ben Gurion. La figlia di Rabin, Dalia, ricorda bene quel momento. Ben Gurion lo fece sedere e gli disse: «Ci porterai alla terza guerra mondiale. L'intera regione sarà messa a fuoco e fiamme». Insomma, Gurion era totalmente contrario e questo non fece che aumentare l'indecisione di mio padre. 5 giugno 1967. Israele lancia un massiccio attacco aereo preventivo. In poche ore l'aviazione egiziana è quasi totalmente distrutta. La vittoria è prossima. Dominati i cieli, Israele irrompe nel canale di Suez in pieno territorio egiziano. Quando il re Hussein di Giordania, incurante dell'avvertimento israeliano, decide di bombardare Gerusalemme, prontamente le forze armate di Rabin, a partire dalla West Bank, iniziano a conquistare una città dopo l'altra, fino ad arrivare alla più importante di tutti, Gerusalemme. Ancora oggi si discute su chi sia il vero vincitore della guerra dei sei giorni. Ciò nonostante, Israele celebra il trionfo militare. I generali entrano nella mitologia nazionale. L'unico che non si lascia prendere dall'euforia collettiva è Rabin. Questo è il suo discorso del 1967. Nessun soldato può gioire appieno. Ha visto i propri compagni cadere e morire. E l'enorme prezzo pagato dal nemico ha toccato il cuore di molti. A nome di tutti i miei soldati, accetto con orgoglio la vostra riconoscenza. 10 giugno 1967. Rabin e il primo ministro Levi Eshkol fanno una valutazione dei territori conquistati. Malgrado l'euforia generale, Rabin considera le terre occupate come delle carte da custodire temporaneamente per giocarle al tavolo dei negoziati. Ciononostante, a dispetto delle proteste di tutto il mondo, Israele procede all'annessione di Gerusalemme Est. I risultati della vittoria militare sono subito visibili. Israele ha triplicato il proprio territorio ed ora detiene la penisola del Sinai, la West Bank in Giordania e le alture del Golan. Ha inizio l'occupazione. Mentre Israele consolida le sue posizioni, Rabin fissa il suo sguardo verso nuovi orizzonti. Ascoltiamo lo scrittore Yitzhak Lahor e Dan Patir, portavoce di Rabin. Rabin è stato l'unico generale a pensare in modo strategico. Per lui non si trattava solo di conquistare una determinata collina e poi un'altra ancora. A che serve se poi non sai dove andare? Prima di lasciare l'esercito, Rabin andò dal primo ministro Levi Eshkol e gli disse: «Ho preparato un documento su come dovrebbero essere, secondo me, le relazioni tra America e Israele». Il premier gli chiese: «Che cosa stai cercando di dirmi?» E Rabin rispose: «Che sono pronto ad andare negli Stati Uniti come ambasciatore per metterlo in pratica». E non stava mica scherzando. In quel periodo tutta l'attenzione dell'America era sul Vietnam, non sul Medio Oriente. A me Rabin piaceva moltissimo. Non era certo un diplomatico sottile. Diceva quello che pensava, senza mezzi termini. Quando si incontrò con Nixon, i due si intesero alla perfezione. L'America decise di fornire ad Israele un ingente quantitativo di armi. Come ripeto, i complimenti non erano il suo forte. Però ricordo che gli dissi: «Yitzhak, il presidente ti farà questa offerta. Mi raccomando, digli qualcosa di gentile, che gli sei molto grato, una cosa del genere». Ma quando Nixon gli diede la notizia, Rabin cominciò subito a fare la lista delle cose che gli servivano e che non erano comprese in quell'offerta. Era la voce di Henry Kissinger. 26 febbraio 1969. Il primo ministro Eshkol muore per un infarto. Gli succede Golda Meir, con cui Rabin ha un ottimo rapporto. Per Golda Meir, Yitzhak era ancora il figlio di Rosa. Golda e Rosa erano state entrambe tra le fondatrici del movimento socialista in Israele. Golda era molto orgogliosa di Rabin e ne riconosceva l'intelligenza. Insomma, oltre ad essere il figlio di Rosa, era anche un uomo estremamente brillante. Era la voce di Zvi Zamir, capo del Mossad negli anni 70. Rabin è molto abile nell'ottenere tutte le armi che vuole dall'America. Peraltro, gli Stati Uniti non chiedono neanche una contropartita politica. Il presidente Nixon non chiede ad Israele alcuna concessione verso gli arabi. Ce ne parla Henry Kissinger. Israele era funzionale alla nostra strategia. Noi volevamo contrastare qualsiasi cosa avesse il sostegno dei russi. I paesi arabi dovevano essere coscienti del fatto che potevano anche prendere armi dai sovietici, ma se volevano dei progressi diplomatici, dovevano passare attraverso Washington e non Mosca. Fin quando ci sono state truppe sovietiche in Egitto e forniture di armi russe a tutti quei paesi, ad esempio, l'amministrazione Nixon non ha mostrato alcun interesse a giungere ad un accordo di pace. Primavera 1973. Rabin torna in Israele con il paese alle soglie di un nuovo scontro militare. 6 ottobre è la guerra del Kippur. Il conflitto mette a dura prova i nuovi rapporti con Washington. Per gli israeliani la posta in gioco è la sopravvivenza, ma gli americani tardano ad inviare gli armamenti. Ciononostante, Israele sbaraglia Egitto e Siria, ma Golda Meir è in crisi. Il paese le rimprovera di essersi fatta trovare impreparata dall'attacco nemico e il governo si dimette. L'unico ad uscire indenne è Rabin e, sebbene la sua esperienza politica sia limitata, è il candidato preferito della stessa Golda Meir. Per Yitzhak Rabin, 1445 voti. L'esordiente Rabin sconfigge un politico navigato come Shimon Peres. In tempi di guerra, la gente guarda con più favore i generali che i politici. Questi ultimi appaiono sempre come gli uomini dei mille compromessi, delle manovre. In realtà, questa è la politica. Senza i compromessi non si farebbe nulla. Autunno 1974. Rabin deve affrontare la prima crisi del suo governo. una trappola preparata appositamente per incastrare il generale nuovo alla politica. Un gruppo di appartenenti a quello che diventerà il movimento dei coloni ha costituito un insediamento illegale nella West Bank. Ma Rabin si oppone fermamente ad ogni tipo di occupazione di terre densamente popolate da palestinesi. Da una parte, Rabin vedeva in noi i diretti discendenti del sionismo, ma dall'altra no. Eravamo ortodossi, con il nostro copricapo sempre indosso, per un verso simili a lui, per un altro completamente diversi. Avete sentito Daniela Weiss, sindaco di un insediamento ebraico in Cisgiordania. Rabin invia Peresh, ministro della difesa, a sgomberare l'insediamento, ma i coloni resistono e continuano la loro occupazione. Per 7 volte Rabin ordina al suo riluttante ministro della difesa di fare evacuare i coloni di Sebastia. Ogni volta però loro ritornano. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. È il 1974 e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin deve affrontare una delle prove più dure del suo governo. È una guerra interna al suo popolo. Un gruppo di coloni ha occupato illegalmente zone della West Bank. Rabin si oppone. I coloni trovano un potente alleato in Ariel Sharon, consigliere alla sicurezza di Rabin, e lui ad aiutarli a evitare i blocchi stradali dell'esercito. Peresh, ministro della difesa, propone un accordo. Ai coloni sarà permesso di restare se si sposteranno presso un vicino campo militare. Rabin, anche se riluttante, accetta. Ritengo che fu un errore. Non avrebbe dovuto cedere. Ma mio fratello temeva che, se non avesse ceduto, si sarebbe arrivati alla guerra civile. Ciò nonostante, fu uno sbaglio. Avete ascoltato la voce della sorella di Rabin. È soltanto l'inizio. Quella con i coloni sarà una contesa infinita. Negli anni a venire Rabin cercherà la via del compromesso, ma sempre con scarsi risultati. L'occupazione di Sebastia apre la strada al movimento dei coloni che da quel momento in poi si impossessano di ogni altura della West Bank. L'intera area che negli intenti di Rabin era una carta da giocare per il processo di pace diviene invece l'ostacolo maggiore a qualunque accordo. In futuro Rabin riterrà la sua resa ai coloni uno dei peggiori errori mai commessi. 1987. È il 26esimo anniversario dell'occupazione dei territori, eppure non si intravede ancora una soluzione. Dopo anni di resistenza e azioni terroristiche, i palestinesi accettano l'OLP quale rappresentante principale delle proprie rivendicazioni. Rabin, che ora è ministro della difesa, continua ad opporsi al sogno di una nazione palestinese. Ascoltiamolo in un'intervista del 1988. Signor Rabin, perché ha scelto una linea politica così dura? Io sono il ministro della difesa ed ho la responsabilità della difesa di Israele e del territorio. Quale scelta avevo? Quali scelte ho? Cedere, ritirarsi, evacuare il territorio. Ritengo che ciascuna di queste soluzioni non farebbe altro che incoraggiare altra violenza, altro terrore, e fungerebbe da incentivo ad entrare in guerra per altri paesi arabi. Pertanto noi diciamo: soluzione politica dei problemi. Non si deve permettere alla violenza di raggiungere il suo scopo. Quindi la violenza deve scontrarsi con la forza. Ed è questo che stiamo facendo. Ma perché proprio con la politica del bastone? Le forze di difesa di Israele sono state istruite a combattere con le due maggiori minacce per Israele. La minaccia delle forze armate dei paesi arabi, che non hanno ancora raggiunto la pace con Israele, è quella del terrore in tutte le sue espressioni. Non avevamo esperienza nella lotta, di quel tipo di operazioni nelle quali ci siamo trovati coinvolti nei territori. E che ne pensa del ruolo dell'OLP in questa rivolta? Per quanto riguarda me, e penso anche per quanto riguarda tutti i partiti che formano il governo di unità nazionale, esso non costituisce un problema. Ciascun palestinese che risieda nel territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, o qualsiasi gruppo di essi, ha il diritto di prendere parte ai negoziati. È impensabile, a mio avviso, che i palestinesi, il 1.400.000 palestinesi che risiedono nei territori, non possano prendere parte ai negoziati che decideranno del loro destino nel prossimo futuro. Tutta la politica dell'OLP e tutta la sua filosofia è in aperto contrasto con il concetto di esistenza di Israele ed il mezzo con il quale essi tentano di raggiungere il loro scopo è il terrorismo indiscriminato. Per cui con i palestinesi che risiedono nei territori dobbiamo negoziare. Con l'OLP no. Ogni sera più di 150.000 palestinesi varcano il confine per andare a lavorare in Israele. Manodopera a basso costo per un'economia in piena espansione. Ormai quasi tutti erano convinti che l'occupazione fosse giusta, che i palestinesi non avessero nulla di cui lamentarsi. Nessuno poi credeva nella possibilità che gli arabi si ribellassero. Il pensiero comune era che ormai si erano abituati e che non ci fosse bisogno di alcuna pace. Quella era la pace, quella era la convivenza. Noi comandiamo, loro sono comandati. E tutti sarebbero vissuti per sempre felici e contenti. Sarà l'intifada a far capire agli israeliani che continuare a negare le aspirazioni palestinesi non porta da nessuna parte. Ci vogliono settimane prima che il governo si renda conto di cosa significhi veramente l'intifada. La risposta di Rabin è chiara. Useremo ogni mezzo legalmente ammesso. Dimostreremo ai palestinesi che anche se ci vorranno 2 mesi, con la violenza non otterranno nulla. Rabin prova a risolvere la questione palestinese coinvolgendo la Giordania, ma il 28 luglio 1988 Re Hussein annuncia di non voler più avere nulla a che fare con la questione della West Bank. Rabin quindi deve affrontare direttamente i palestinesi ed ascoltarli. Ricordo ancora una visita fatta da Rabin al campo profughi di Keziot. C'erano migliaia di palestinesi dietro il filo spinato. Migliaia. Facevano davvero paura. Ci recammo a vedere la cucina del campo. Lì, dietro una montagna di patate, vedemmo 2 palestinesi che stavano pelando patate. Rabin si rivolse ad uno di loro. Vuoi davvero passare i tuoi anni dietro un filo spinato? Il ragazzo lo guardò e gli rispose: signor ministro, lei può mettere l'intera popolazione palestinese dietro il filo spinato. Noi continueremo comunque a chiedere uno Stato e alla fine lo otterremo. Non abbiamo nulla da perdere. 1992. Israele è di nuovo in campagna elettorale. Rabin promette di risvegliare il paese dal torpore dei vari governi di destra e garantisce che nel giro di un anno raggiungerà un accordo con i palestinesi. Arrivare all'autonomia nell'ambito di un accordo ad interim per un periodo di transizione. Ma Rabin non fa mai alcun riferimento ad un possibile contatto con la leadership dell'OLP. Ce ne parla Azmi Bishara, membro palestinese del Parlamento israeliano. Nessuno pensava di intavolare un negoziato con l'OLP. In Israele la propaganda nei confronti dei palestinesi era durissima. L'OLP era demonizzato, dipinto come un'accolita di terroristi. In realtà era solo un modo per evitare la nascita di uno Stato palestinese. Il 13 luglio del 92 Rabin vara il suo nuovo governo, ma non percepisce che l'atmosfera politica nel paese ormai è cambiata. nel 92, dopo 25 anni di occupazione, i coloni più religiosi sono gli unici in grado di mobilitare le masse. Rabin, tuttavia, è determinato a tenere fede alle promesse elettorali. Dissi chiaro e tondo che non si poteva raggiungere un accordo con l'OLP di punto in bianco. Se volevamo arrivare a qualcosa, il punto di partenza doveva essere diverso. Innanzitutto, ci doveva essere un riconoscimento reciproco. Yitzhak pensava che per gli israeliani il riconoscimento dell'OLP sarebbe stato troppo. Ciò nonostante, non mi fermò. Rabin accettò in meno di 3 settimane quello che gli israeliani avrebbero impiegato almeno 2 anni a digerire. Si è passati dall'opposizione all'OLP alla richiesta di mantenere una certa discrezione nei colloqui, fino al riconoscimento reciproco. E ciò non solo come prezzo da pagare, ma anche come qualcosa per il bene di Israele. 13 settembre 1993. Il primo accordo mai raggiunto tra palestinesi e israeliani è pronto per essere firmato. Fu un pasto già cotto e preparato prima che noi ce ne accorgessimo. E non solo nel senso che noi eravamo ignari di cosa stesse succedendo. Rabin aveva mandato noi e il segretario di Stato a Damasco. Si era liberato di noi, proprio mentre Peres stava concludendo i negoziati di Oslo. E poiché eravamo stati estromessi, non riuscimmo a capire quali fossero i termini del negoziato. Leggemmo il documento, ma non capimmo quali fossero gli scambi prefissati dalle due fazioni. C'erano alcune cose, ma ne mancavano altre. Quello non era il nostro documento. Eravamo arrabbiati, molto arrabbiati. Avete sentito la voce di Martin Dick, assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti. La strada per gli accordi di Oslo è aperta. È un momento storico, anche solo per le immagini di pace che fanno il giro del mondo. La stretta di mano tra Arafat e Rabin alla presenza di Bill Clinton segnano un'epoca. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Oslo 1993. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat firmano un accordo che mira al riconoscimento di entrambe le parti. Per alcuni è un punto di svolta nella storia del mondo intero. Ascoltiamo Joel Singer, consulente legale per i negoziati di Oslo. Il momento delle strette di mano fu preparato per 3 giorni. Si incrociarono messaggi da Tel Aviv alla Casa Bianca, dalla Casa Bianca a Tunisi, affinché non venisse in mente ad Arafat di baciare o abbracciare nessuno. Dovemmo fornire delle istruzioni precise. Non è facile, né per me come soldato abituato alla guerra, né per i miei concittadini che ora ci stanno guardando. Noi, i soldati, siamo tornati insanguinati dal campo di battaglia. Abbiamo visto amici e parenti morire davanti ai nostri occhi. Oggi vogliamo dirvi basta con il sangue, basta con le lacrime, basta. Dopo anni, Israele revoca il coprifuoco notturno imposto a Gaza. Ai palestinesi Oslo appare come l'unica strada per giungere all'indipendenza e a un loro Stato, anche se in effetti Rabin non ha mai parlato esplicitamente di questo. Ascoltiamo il commento di Azmi Bishara, membro palestinese del Parlamento israeliano, e Martin Idik, assistente del segretario di Stato americano. Il fatto che Rabin non abbia mai parlato della possibilità di uno Stato palestinese dimostra che Oslo non fu un accordo storico. Fu semplicemente un processo di pace. Arafat era pronto ad accettare qualsiasi cosa gli venisse offerta e ad acconsentire alle richieste di Rabin. Lasciamo da parte Gerusalemme, lasciamo da parte gli insediamenti, lasciamo la sicurezza nelle mani di Israele. Non parliamo di Stato palestinese. Rabin non parla di Stato palestinese. Per i coloni, tuttavia, l'accordo di Oslo non è che il primo passo di un processo che porterà alla loro espulsione dai territori occupati. Negli accordi di Oslo, secondo il piano di Rabin, era prevista la cessione di una parte di Israele, gli insediamenti. Per noi fu come un pugno in faccia, fu un colpo durissimo al sionismo. Rabin è un traditore! Rabin è un traditore! Rabin è un traditore! Rabin è un traditore! È sempre molto più difficile negoziare con la propria gente piuttosto che con il nemico. A nessuno piacciono i compromessi, perché tutti pensano sempre che i compromessi fatti siano inaccettabili. Avete sentito Shimon Peres? L'accordo viene criticato anche dall'esercito, da sempre alleato di Rabin. Per ammorbidire i militari, Rabin invita l'alto comando al tavolo dei negoziati per l'applicazione pratica dell'accordo. Alla fine si venne a creare una situazione in cui erano i militari, non i civili, a decidere gli aspetti dell'accordo. In un certo senso, insomma, si andò al di là di ciò che è accettabile in un sistema democratico, dov'è la politica a prendere le decisioni. Il cuore di tutta la questione è il punto in cui si diceva che la sicurezza spetta solo a Israele. In termini pratici, ciò significava che ogni qualvolta ci fosse stato un problema di sicurezza, sarebbero stati gli interessi di Israele a prevalere. Se per esempio c'era bisogno di un checkpoint che interrompesse il flusso di palestinesi da un villaggio all'altro, veniva istituito e basta. Per tutti quei palestinesi che ogni giorno dovevano affrontare l'umiliazione dei controlli, questo aspetto fu devastante. A loro era stato detto che l'accordo di Oslo li avrebbe condotti a una vita migliore. Invece per loro era ancora peggiore. Mio padre aveva una pazienza infinita. Era preciso, diffidente. Sono certa che se ne avesse avuto la possibilità avrebbe completato il suo lavoro. Tra lui ed Arafat si creò qualcosa di speciale. Non era amicizia, né tantomeno amore. Era una collaborazione tra due nemici. Avevano capito che in un modo o nell'altro dovevano venirsi incontro. Era la voce della figlia di Rabin. Nel trascinarsi del processo di pace riaffiorano tutte le antiche fobie e i vecchi rancori. Da entrambi i lati gli estremisti rifiutano ogni forma di compromesso e organizzano una serie di attentati per minare gli accordi. Hebron, 27 settembre del 1994, un estremista ebreo ortodosso uccide 29 palestinesi per il processo di pace. È un colpo mortale. Quello di oggi è un crimine esecrabile. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e le nostre condoglianze. I palestinesi in lutto per l'orrendo massacro di Hebron insorgono, ma Rabin si lascia sfuggire l'occasione per evacuare con la forza i coloni da Hebron. Secondo molti, è il secondo grande errore della sua carriera politica. La notizia era nell'aria, ma quando è giunta ha creato sconcerto. Yitzhak Rabin ha ordinato all'esercito e alla polizia di impedire con la forza la creazione di nuovi insediamenti. Nei mesi seguenti all'accordo di Oslo, Rabin impedisce la realizzazione di nuovi insediamenti. Tuttavia, non blocca quelli già in costruzione. Quando prende posizione contro le nuove case costruite come provocazione, la reazione è violenta. Bomba in un autobus a Tel Aviv. Hamas ha rivendicato l'attentato. Ben 4 membri della mia famiglia sono stati uccisi e il colpevole è Rabin. È lui che ha dato le armi ai loro assassini. Io, soldato matricola 30743, generale in pensione delle forze armate israeliane. Oggi mi considero un soldato nell'esercito della pace. Se davvero pensano che io sia un traditore e un omicida, non credo che ci siano i presupposti per un dialogo. Rabin non comprende l'intensità e la vastità del movimento che si oppone al processo di pace. Nell'ottobre del 1995 il Parlamento israeliano, la Knesset, ratifica gli accordi di Oslo. Gli oppositori del processo si danno appuntamento a Gerusalemme per una manifestazione. Così la voce di Ariel Sharon. Yasser Arafat è a Gaza e a Gerico con l'approvazione del governo di Israele. Arafat è venuto con il preciso intento di costituire uno Stato palestinese. E noi dobbiamo fare di tutto per impedirglielo. Il 1995 è stato un anno pessimo. A Gerusalemme, nella piazza di Sion, affissero dei manifesti con Rabin in uniforme da SS. La folla urlava: Yitzhak assassino, Yitzhak traditore. Tutti dicevano cose terribili sul suo conto. E anche il suo stesso partito non lo sostenne in modo adeguato. Fu lasciato solo. Allora noi decidemmo di organizzare una manifestazione per la pace, ma Rabin disse: non sono d'accordo, non credo che sia una buona idea, verranno molte meno persone di quello che pensate. Poi però, quando gli dicemmo che erano arrivate almeno 200.000 persone, disse: è uno dei giorni più belli della mia vita. È con grande commozione e dolore che il governo di Israele deve annunciare la morte del primo ministro Yitzhak Rabin, assassinato questa sera a Tel Aviv. Rabin viene ucciso da Yigal Amir, un ebreo estremista. Nel suo ultimo discorso alla Knesset, circa un mese prima che fosse ucciso, Rabin disse una frase assolutamente sorprendente. Non siamo arrivati su una terra disabitata. Questa frase, pronunciata da un sionista, il cui padre e la cui madre erano sionisti, la cui famiglia era interamente sionista, un uomo cresciuto nell'esercito, fu incredibile. Era come un'eresia. Erano le parole di un visionario che si era spinto molto in avanti. Ecco perché fu ucciso. Siamo tornati e abbiamo costituito una nazione qui in Israele. Ma non siamo arrivati su una terra disabitata. Qui c'erano dei palestinesi che hanno combattuto contro di noi in secoli fatti di pogrom e sangue. I morti sono stati migliaia, da ambo le parti, e per lo stesso pezzo di terra. Possiamo continuare ad uccidere ed essere uccisi. Oppure possiamo interrompere questo infinito ciclo di morte. Possiamo dare una speranza alla pace.